Buongiorno, come stiamo? Bene, bellissimo. Io devo necessariamente sottolineare quello che ha detto Mario, Pastore Pinuccio, io ti ascolterei per tutta la vita, perché come le dici tu le cose, nessuno le sa dire, è meraviglioso, mai mi permetterei di toglierti la parola, mai, né con le battute né seriamente, mai, mai, mai, mai. Chi è d'accordo con me? Assolutamente, non avevo dubbi. Sto incominciando però con qualche minuto di ritardo questa predicazione, quindi se finiremo un tantino più tardi, non sarà responsabilità di nessuno, Scherziamo, scherziamo, è bello essere in famiglia, è bello scherzare, è bello gioire e celebrare insieme, amen? Fantastico, io tra le tante cose faccio anche la maestra e insegno in una scuola primaria. E sapete, insomma, i miei bambini sono un tantino particolari, sono i migliori del mondo, ma quello che dicono, quello che pensano, quello lo dicono senza alcun filtro. Era venerdì, erano le 3 del pomeriggio e Samuele, 7 anni, mi fa: maestra, basta, sono esausto. Samuele, come sei esausto? Basta, sono esausto, voglio andare a casa. Ok, Samu, allora mi avvicino, doveva fare un esercizietto, perché io sono una maestra comprensibile, no? Sono comprensiva, è comprensibile anche alle volte. Mi avvicino, Samuele, ma scusami, ma non hai fatto neanche l'esercizietto che ti ho dato da fare. Maestra, sono esausto. Ho capito che sei esausto, ma almeno una parolina, non ti va di scriverla? Maestra, ti devo dire una cosa. Dimmi, io non so da dove devo incominciare. Ok. Ed è per questo che sei esausto? Sì, voglio andarmene a casa. Ok, allora adesso mi siedo accanto a te e lo vediamo insieme. Ti va? Ok, ti insegno io da dove incominciare. Che dici? Ok, maestra, però poi andiamo a casa. Ok, sì, anche io voglio andare a casa. Ce ne andremo a casa prima o poi, dobbiamo aspettare le 4. Samuele era frustrato, quel poverino, perché non sapeva da dove doveva incominciare per svolgere questo piccolo esercizietto. Lui aveva tutte le competenze per farlo, tutte le capacità per svolgere quell'esercizio che io avevo ideato e avevo fatto a sua misura, ma non sapeva da dove doveva incominciare. Questo portava in lui frustrazione. E io ho pensato che spesso è proprio questo il sentimento che alle volte ci accomuna quando ci troviamo a dover condividere il Vangelo, parlare di Gesù, testimoniare della nostra fede con chi ci sta attorno. Chi si è mai sentito un tantino disorientato? Mai come quest'anno la visione è chiara, la missione, la chiamata è chiara e sappiamo come dobbiamo fare e le occasioni neanche ci mancano, però questo non ci basta per mettere insieme il nostro coraggio e farlo, per prendere l'iniziativa e vivere in questa missione. Perché? Perché spesso non sappiamo da dove dobbiamo incominciare. E la visione chiara, uno in più, l'abbiamo sentito in tutte le salse, uno in più. La strategia quest'anno è altrettanto più chiara. Cerca, annuncia e... non così tanto chiara. Cerca, annuncia e accompagna la persona con la quale magari hai condiviso il Vangelo nel percorso di fede che gli sta dinanzi. E lo sappiamo, l'abbiamo ascoltato, però alle volte ci sentiamo un po' disorientati, ci sentiamo come il mio alunno Samuele, non sappiamo da dove dobbiamo incominciare. E quindi io mi sono chiesta: perché non, come chiesa, perché ci troviamo a non condividere il Vangelo, il fatto che Gesù è venuto, si è fatto uomo per la salvezza di tutti coloro che ripongono la propria fede in Lui. Perché non risulta così automatico e semplice parlare di Gesù alle persone che ci sono attorno? E allora io ho pensato a tre motivi insomma principali, un po' che forse ci accomunano un po' tutti. Li volete ascoltare? Così magari mi dite se vi ritrovate o meno in questo. Il primo motivo è che spesso ci convinciamo di non essere in grado di farlo. Vuoi per personalità, vuoi per mancanza di conoscenza. E magari pensiamo, vabbè, è facile per il pastore Mirko dire che dobbiamo andare, cercare, annunciare, accompagnare. Magari avessi anche io la parlantina, la personalità, il suo essere estroverso. Allora, certo che sarebbe facile anche per me. Non l'abbiamo mai pensato? Oppure pensiamo... vabbè, se avessi magari il suo modo di fare o la sua simpatia o i suoi contatti, certo, anche io lo farei. E ci dimentichiamo che noi siamo figli di un creatore, non un duplicatore. Dio, Gesù, Dio ci ha creato in maniera unica, diversi l'uno dall'altro, e quindi anche nel vivere la missione che Lui ha dato ad ognuno di noi possiamo avere la libertà di essere noi stessi, perché come parli tu di Gesù, io non potrò mai parlare. Le persone che tu puoi raggiungere con il Vangelo di Gesù, io non le potrò mai raggiungere, perché sono amici tuoi, non sono amici miei. Giusto? Sto gridando un po' troppo, scusate, adesso mi calmo. Oppure pensiamo, ci siamo svegliati, meno male. Oppure pensiamo, vabbè, però metti che mi domandano delle cose e io non so rispondere, cioè io non ce li ho tutte queste conoscenze. È chiaro, se ce l'avessi anche io una laurea in teologia, allora sarebbe facile anche per me rispondere alle domande che mi pongono o condividere il Vangelo con il mio collega di lavoro, che quello, i libri di filosofia se li mangia uno dietro l'altro. Ma chi legge poi i libri di filosofia? Il mio collega di lavoro. E ci dimentichiamo che che la laurea in teologia, semmai, ti fa porre più domande che risposte. Cioè, se tu prima di incominciare a studiare teologia avevi qualche risposta, la studi e manco quelle più c'hai. Quindi non è l'aspettativa né della persona con la quale stai parlando di Gesù, né tantomeno di Dio, che tu o che io sappiamo tutte le risposte alle domande che ci vengono, poste. Non è quella l'aspettativa. Tante volte è meglio dire, senti, guarda, io non lo so. Cioè, questa domanda che mi hai fatto, non lo so, però so che da qualche parte, nella parola di Dio, la risposta la possiamo trovare. Ti va di leggerla insieme con me? E questo lo possiamo fare tutti, o no? O spesso siamo un po' impauriti o timorosi della risposta che possiamo avere dalla persona alla quale vogliamo parlare di Gesù. Abbiamo paura fondamentalmente di essere rifiutati, abbiamo paura di essere magari messi da parte a scuola o essere presi in giro o essere messi a disagio, e quindi preferiamo stare in silenzio. Magari preghiamo, certamente, ma quando si parla di annunciare, di cercare, facciamo un tantino, un passo indietro. Perché? Perché non lo so se la persona sarà disposta ad ascoltarmi, non lo so se semplicemente mi prenderà in giro o magari non mi rivolgerà più la parola. Oppure, siete pronti ad ascoltare la terza? Vi ho perso? No? Ci siete? Ok. Oppure, semplicemente, perché? Perché non parliamo di Gesù? Perché, insomma, in 50 anni che esistiamo come Chiesa, se avessimo parlato, se io avessi parlato di Gesù in tempo e fuori di tempo, a chiunque, senza indugio, con franchezza, beh, certamente saremmo forse un pochino di più, o no? E certamente diciamo sempre, no, vabbè, ma noi non andiamo dietro i numeri. Ehi, dietro il numero c'è un'anima. Dietro il numero c'è una vita, dietro il numero c'è una famiglia, ci sono altre persone che possono essere salvate e trasformate dall'opera di Gesù. Ma spesso non parliamo di Gesù perché semplicemente non vogliamo. Non vogliamo perché non siamo disposti tantissimo a scomodarci. Perché non ci vogliamo provare ancora una volta, o perché siamo forse molto più interessati e presi e occupati da quelli che sono i nostri bisogni piuttosto che dai bisogni dell'altro, o semplicemente perché, parliamoci chiaro, posso essere onesta, perché lo sto dicendo a me prima di tutto e poi a tutti noi come famiglia, la nostra vita va avanti lo stesso, o che parliamo di Gesù a chi non lo conosce, o che non parliamo, la nostra vita va avanti lo stesso, siamo salvati lo stesso, andremo in paradiso ugualmente e quindi ci sentiamo comodi nella nostra chiesa, ci sentiamo comodi nel nostro gruppo familiare, ci sentiamo comodi con il nostro ministero e con il nostro titolo, dimenticandoci la cosa più importante, che è il perché siamo qui come chiesa, che è il perché abbiamo il gruppo in casa, che è il perché possiamo avere un ministero per servire il Signore Gesù affinché il suo nome possa essere conosciuto. Amen? È facile che il nostro cuore si accomodi e smetta di pulsare per quello che fa pulsare il cuore di Dio, che è la salvezza delle anime. È facile, non lo facciamo apposta, ma bisogna che siamo intenzionali in questo. È facile che il nostro cuore perda un attimino, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno, e ci provo, non mi vuole ascoltare, eccetera, eccetera, che perda quella cosa che caratterizza Dio più di ogni altra cosa, quella cosa che ha caratterizzato il cammino e l'opera e il ministero di Gesù più di un'altra cosa. Sapete cos'è? La compassione. È facile che, presi da tutto, il nostro cuore smetta di pulsare compassione per le persone che sono nella mia vita, che sono nella tua vita, che non conoscono Gesù. E quindi oggi voglio parlarvi di questo. Vi va? Parliamo. Che cos'è? Di che cos'è questa compassione e perché dovrebbe caratterizzarci come chiesa, caratterizzarci come figli di Dio e determinare il nostro camminare giorno dopo giorno nella nostra quotidianità, con i nostri amici, nella nostra famiglia e dappertutto. Matteo 9,36 è un verso che conosciamo tantissimo. Noi leggeremo Matteo 9 dal 36 al 38, quindi non tantissimi versetti oggi, ma questi versi descrivono Gesù che era lì, che aveva insegnato, è guarito, è liberato, e poi ad un certo punto dice: vedendo le folle, ne ebbe, lo diciamo insieme? La compassione, dal latino, ho studiato, compatir, significa soffrire insieme. È molto di più che una semplice emozione determinata da agenti esterni, ma è proprio un qualcosa di molto più profondo, cioè il partecipare alla sofferenza di chi ci sta davanti. È molto di più che dire: mo, guarda un po' qua, mi dispiace, che peccato, e poi girarsi dall'altra parte e continuare la propria vita. Ma è un soffrire insieme, è una forma profonda di empatia. Cioè, tu ti vedo che stai soffrendo, forse neanche tu te ne accorgi quanto stai soffrendo senza Gesù, ma io che ho compassione di te, soffro con te perché voglio che tu viva per quello che tu sei stato creato, cioè per Gesù, per fare, per vivere la sua volontà. Si tratta di un sentimento di pietà per chi è felice, per i suoi dolori, per il suo disorientamento, per il fatto che è perso per l'eternità. E non è una pietà che va dall'alto verso il basso. Capite cosa vi voglio dire? Quello che tu dici, ma guarda che peccato, ho pietà di lui, ma c'è che ti senti migliore. Dall'alto verso il basso. Vabbè, sì, mi dispiace. Però in fondo gli piace fare quello che fa? Queste sono le conseguenze. Questa non è compassione. Questa a casa mia è giudizio. O no? Quante volte ci siamo ritrovati? Quante volte io mi sono ritrovata a dire, a pensare, le ho detto una volta, le ho detto due volte, ma continua a fare quello che sta facendo, poi grazie che viene a piangere. Io l'ho detto. E quello che sentivo non era pietà. Pietà quella che intende la Bibbia. Era un sentirmi superiore. Era una pietà che creava distanza dall'alto verso il basso. Invece no, invece la compassione è quel sentimento di pietà che ti fa abbassare, che ti fa servire, che ti fa capire il problema, la sofferenza, il bisogno di chi non ha Gesù e ti fa abbassare, ti fa mettere accanto e ti fa avere quella voglia, quel desiderio, quella pulsazione al cuore. Perché? Perché vuoi fare qualcosa, perché vuoi aiutare, perché vuoi intervenire, perché vuoi offrire a quella persona l'unica e vera soluzione che è Gesù Cristo. Amen? Nel Vecchio Testamento la parola compassione è la traduzione di tante parole diverse, che significa misericordia. Queste parole vengono tradotte anche con i termini misericordia, pietà, amore. Nel Nuovo Testamento ci sono altrettanti termini che sono veramente incomprensibili. Io l'ho studiato un po' di greco, ma proprio erano incomprensibili, erano lunghe così queste parole in greco, e significava proprio stavano a significare il soffrire insieme, il voler fare qualcosa, il voler agire, il voler cambiare la situazione, perché senti, ascoltate bene, nelle viscere un tumulto, una cosa che non va. Capite quello che vi sto dicendo? L'avete mai sentito questa sensazione? Io sì, ma non era per la compassione. Forse era perché non avete capito, forse era perché ero arrabbiata, o forse perché volevo il mio senso, con il mio senso di giustizia, e lo sento proprio qua. Bene, quel sentimento lo dovremmo sentire invece in relazione al dolore che dovremmo provare per le persone che non conoscono Gesù. Quando è stata l'ultima volta? Ce la facciamo insieme questa domanda, poi la potete discutere nel vostro gruppo in casa. Quando è stata l'ultima volta che abbiamo sentito nelle viscere quel tumulto perché abbiamo avuto compassione per chi non sta vivendo insieme a Gesù? Quando è stata l'ultima volta? Onestamente, Dio è descritto nella sua parola come il Dio pieno di compassione. Quando si è presentato a Mosè in Esodo 30, vediamo, aspetta che lo trovo, In Esodo 34, al versetto 6, Dio si presenta a Mosè dicendo: l'Eterno, l'Eterno è misericordioso, cioè pieno di compassione, misericordioso e pietoso, è lento all'ira, ricco in misericordia e fedeltà. Dio è pieno di compassione. Tutto quello che Dio ha fatto dall'inizio dei tempi l'ha fatto perché è compassionevole, l'ha fatto perché sente compassione, ha sempre sentito compassione nei confronti di chi lui stesso ha creato. È per compassione che Dio ha scelto Israele e l'ha reso il suo popolo, è per compassione che poi l'ha liberato dalla schiavitù, è per compassione che gli ha dato la legge, è per compassione che poi l'ha restaurato dall'esilio. Dio ha fatto tutto spinto da un cuore pieno di compassione. Noi, come figli di Dio, come uomini e donne di Dio, dobbiamo ricercare quel cuore pieno di compassione di Dio e farlo nostro. Dio, dammi la tua compassione. Dio, riempi il mio cuore di compassione per le anime. Dio, fammi soffrire per chi mi sta davanti. Togli da me questa indifferenza. Togli da me questo essere distaccato. Togli da me questo senso di inferiorità, di superiorità. E fammi sentire il tuo cuore, che possa essere il mio. Gesù nei Vangeli è descritto come colui che era mosso da compassione. Dio pieno di compassione, Gesù mosso da compassione. Questo mi fa capire che se io voglio crescere alla statura di Cristo, come Efesini ci insegna, devo imparare a muovermi spinta dalla compassione per le anime. E mi insegna anche che se il mio cuore è pieno di compassione, i miei passi saranno determinati da quella stessa compassione. Oh Dio, dammi il tuo cuore, che il mio cuore possa essere pieno di compassione, che le mie mani possano essere mosse da compassione. E questa è la nostra preghiera. Io prego che sia la nostra preghiera, perché sapete, in tutto quello che Gesù ha fatto, Gesù era mosso da compassione. Gesù vedeva le folle, è stato mosso da compassione e le ha guarite. Vedeva le folle, mosso da compassione, le ha sfamate. Ha visto due uomini, mosso da compassione, ha toccato i loro occhi e quelli hanno ricevuto la vista. Ogni miracolo che Gesù ha fatto è stato preceduto da che cosa? La compassione precede il miracolo. Se noi vogliamo vedere il miracolo della salvezza attorno a noi, allora chiediamo il cuore di compassione di Dio. E che le nostre azioni possano essere spinte dal soffrire, perché le persone stanno morendo nelle tenebre. Quell'uno in più, chiesa, non è un programma, non è un bel titolo, non è la moda del 2020, è il cuore di Gesù. È il nostro cuore. E solo se capiamo questo potremo vedere il miracolo. Altrimenti Dio è pieno di compassione, quindi lui salva comunque in modi meravigliosi che vanno al di là di quello che noi possiamo comprendere. Ma Dio si vuole servire di te e di me. Amen? Saremmo noi quei figli compassionevoli? Vogliamo essere noi coloro che chiedono il cuore pieno di compassione di Dio e le cui mani sono mani che sono spinte da un amore, da una pietà, da una voglia di abbassarsi e di servire affinché la salvezza arrivi dove ancora non è arrivata? Saremo noi questa chiesa? Sì. Saremo noi questa chiesa? Sì. Numero uno, la compassione è il punto di partenza, quello che abbiamo appena detto. Tutto quello che facciamo, tutto quello che siamo, parte dalla compassione che noi abbiamo per chi ci sta davanti, per il nostro amico di banco, per il nostro collega di lavoro, per il nostro insegnante all'università, e tu sai chi è nella tua vita che ha bisogno di Gesù. La compassione è il punto di partenza. Numero due, siete pronti? Grazie Mario. La compassione è quella lente che ci fa vedere le persone per quello che veramente sono. La compassione è quella lente che ci fa vedere chi ci sta attorno per quello che veramente è. In Matteo, sempre nella stessa storia, andiamo avanti, Matteo 9,36, è lo stesso versetto, ma con un pezzettino aggiunto. Vedendo le folle, ne ebbe compassione. Questo è il pezzo che abbiamo letto. Vedete? Compassione, punto di partenza. Perché erano stanche e disperse, come pecore senza pastore. Gesù ebbe compassione perché vide la folla per quello che esattamente era. Era un gregge stanco, era un gregge aggravato, era un gregge disperso, errante, perché non aveva un pastore. Allora, davanti, cioè Gesù ha visto una folla e c'erano uomini, c'erano donne, c'erano adulti, c'erano bambini, c'erano persone diverse, c'era il ricco, c'era il povero, c'era quello sposato, c'era quello single, c'era chi era abbastanza soddisfatto e felice della propria vita, chi invece un po' meno, ma Gesù ha visto tutti quanti per quello che erano, delle pecore stanche e disperse. Perché? Perché tutti quanti avevano bisogno di salvezza. Tutti quanti avevano bisogno di un pastore che desse loro guida e che riempisse la loro vita di riposo, di gioia, di pace. E questo, Chiesa, rimane il bisogno oggi di tutti, nessuno escluso, di tutti quelli che ci sono attorno. Quando, allora, la domanda è, che possiamo discutere nel nostro gruppo familiare, la domanda è, quando vediamo le persone, come le vediamo? Con che lente le vediamo? Perché la lente della compassione farà sì che le possiamo vedere per quello che veramente sono. Possiamo vedere quello che è il vero e più profondo bisogno di chi ci sta dinanzi. E questo vero e più profondo bisogno di chi ci sta dinanzi si chiama Gesù. Amen. Oggi siamo tutti bravi. Tutti bravi a mostrare la parte migliore di noi stessi. Siamo diventati tutti bravi a mettere il filtro giusto, non solo sulle foto che dobbiamo postare, ma per ogni circostanza che viviamo, mettiamo il filtro giusto. Per ogni relazione che vogliamo vivere, intraprendere, mettiamo il filtro giusto. O no? E allora c'è il nostro datore di lavoro, il nostro collega o chi per loro, che sembra che proprio stanno meglio loro che noi. Non l'abbiamo mai pensato? Non l'abbiamo mai detto? Stanno meglio loro che noi. Non gli manca niente. Sembra che tutto vada bene. È sempre felice. Sempre con questo sorriso, sempre perfetta. Chiesa, non facciamoci ingannare, perché il salario del peccato rimane la morte. E Gesù è l'unica via, è la verità, è la vita. E allora tu puoi avere tutti i soldi che sogni, puoi stare bene, puoi ridere sempre, puoi essere felice, ma senza Gesù rimani disperso perché non hai una via da seguire. Senza Gesù vivi nella menzogna che puoi essere autonomo, perché lui non è entrato con la sua verità nel tuo cuore. Senza Gesù sei condannata a morte, prima su questa vita e poi prima in questa vita e poi nell'altra. Questa è la verità, non più per noi, gloria a Dio, ma rimane la verità per tutte le persone che ci sono attorno. Non facciamoci ingannare da quello che luccica, non facciamoci ingannare dai filtri del 2020. Il bisogno di Gesù è rimasto uguale, perché noi siamo stati creati per avere una relazione con Gesù, siamo stati creati per glorificare il Padre, per adorare Dio. E quando questo manca, manca tutto. Puoi avere tutto il resto, ma ti manca la cosa più importante. Non dimentichiamocelo, Chiesa. Possiamo gioire per noi che questo tesoro l'abbiamo trovato, ma soffriamo. Soffriamo, Chiesa, soffriamo di più per chi non l'ha trovato questo tesoro. E mostriamoglielo, che possiamo essere degli ambasciatori, perché vediamo veramente il bisogno delle persone, il vero bisogno delle persone. Perché la compassione ci fa rendere conto che c'è molto oltre quello che l'occhio vede. Vediamo con il cuore. Gesù vedeva con il cuore. Anche noi possiamo farlo. Amen? Numero 3. La compassione è azione. Quindi abbiamo detto, la compassione è il punto? Per piacere rispondetemi. La compassione è il punto? La compassione è la lente che ci fa vedere il vero bisogno delle? Numero 3, la compassione è azione. In Matteo 9, dal 37 al 38 questa volta. Allora, egli, Gesù, disse ai suoi discepoli, la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate, dunque, il Signore della messe che spinga degli operai che spinga degli operai nella sua messe. Allora, mentre la prima immagine, quella del gregge errante e stanco, ci fa capire che dobbiamo soffrire, avere compassione per questo stato nel quale le persone si trovano. Questa seconda immagine, quella della messe, ci dice, ok, hai visto? Hai sentito nelle viscere? Ora agisci. Ora vai. E per Gesù, questo momento di sentire compassione e agire è così, subito. Per noi ci perdiamo un po' nel percorso, che ci mettiamo così tanto che poi non lo sentiamo più, quella cosa nelle viscere. Gesù è l'esempio per eccellenza di questa compassione che spinge che fa muovere all'azione. L'abbiamo visto prima: ebbe compassione e guarì, ebbe compassione e sfamò, ebbe compassione e liberò, ebbe compassione e fece qualcosa per Lazzaro. Gesù ha pianto, ha avuto un forte dispiacere, ha sofferto, è stato empatico con le sorelle, ma non ha pianto solamente. Poi a Lazzaro lo ha resuscitato. Vedete come quel sentimento poi deve necessariamente portare all'azione. Gesù non ha visto solo le folle, ma le ha guarite, le ha liberate. Gesù non ha visto solo me e te nella perdizione più totale, nella depravazione più profonda, nella separazione più grande da Lui. Non è che ci ha visto e basta. Lui ci ha visto e si è fatto uomo e ha lasciato il suo trono, è venuto su questa terra, è morto e poi è risorto per tirarci fuori da quella condizione di condanna eterna e ricongiungerci al Padre. Questa è compassione, questa è vera compassione, è agire, è fare qualcosa. Gesù, nel verso che abbiamo letto, non ha chiesto osservatori. Che cosa ha chiesto Gesù? Operai. L'operaio si sporca le mani, l'operaio fa qualcosa, l'operaio agisce, si abbassa, interviene. Non ha chiesto osservatori. E la cosa incredibile è che Gesù, e io voglio che questo sia molto chiaro per noi, perché Dio non ha bisogno di nessuno. Cioè, il concetto di bisogno non fa parte di Dio, perché Dio è tutto. Dio è tutto e ha tutto. Gesù non ha bisogno di noi, degli operai. Non è un datore di lavoro che ha bisogno degli operai. Ma Gesù vuole. E non solo vuole che noi siamo i suoi operai, ma ci chiama ad esserlo. Ci chiama ad essere persone che non possono fare a meno di abbassarsi e di condividere il Vangelo, perché sono mossi da compassione. La domanda che possiamo discutere nel nostro gruppo familiare è: pregheremo noi per essere quegli operai? Pregate affinché il Signore della messe spinga degli operai nella sua messe. Pregheremo noi per essere quegli operai? Ci faremo spingere da questa compassione che Dio stesso mette nel nostro cuore e poi agiremo? Io voglio rispondere sì a questa domanda, perché altrimenti, Chiesa, il rischio è ridurre tutto quello che siamo come Chiesa a un intrattenimento. E Gesù non ha dato la sua vita per intrattenerci. Gesù ha dato la sua vita per salvarci, ha mandato il suo Spirito per equipaggiarci, affinché la tua condizione di salvezza oggi possa essere la condizione di salvezza di chi è nella tua vita. Io intenzionalmente non ho investito troppo tempo nel darvi esempi di chi è nella nostra messe. Ho fatto bene perché noi lo sappiamo chi c'è nella nostra messe. La mia domanda non è a chi devi andare, perché tu lo sai. La mia domanda è: vogliamo andare? Vogliamo andare? la nostra risposta a questo farà la differenza. Se scegliamo di essere degli osservatori o se vogliamo rispondere alla missione e alla chiamata che Dio ha per ognuno di noi di essere suoi operai, pieni di compassione, che non vanno per un programma, non vanno perché qualcuno gliel'ha detto, non vanno perché il dovere, insomma, devo farlo, vanno perché lo sentono qua, la sentono qua, questa cosa, che la persona che viene al negozio non conosce Gesù. E allora incomincio a pregare: Gesù, dammi compassione. Gesù, dammi compassione, dammi le parole giuste. E Gesù lo fa. Perché lui non è che ci chiama come uno scherzetto. Diciamo, ti chiama e poi veditela tu. No, Gesù ci chiama e ci equipaggia. Vogliamo essere equipaggiati? Vogliamo andare? Chi ha bisogno di più compassione questa mattina? A chi ha parlato Gesù attraverso questo messaggio? Io sono grata a Dio perché Lui non si stanca di convincere la sua Chiesa a vivere un livello maggiore di consacrazione a Lui, di missione, perché tante sono le persone che hanno bisogno del suo Vangelo. Per cui io vorrei invitarci ad alzarci e a chiudere i nostri occhi e vorrei che incominciassimo tutti quanti, Chiesa, per piacere non mi fate pregare da sola, che io ho pregato già tutta la settimana per questo fatto ma preghiamo tutti insieme, va bene? Vi va di alzare un pochino la voce? Ok, benissimo, preghiamo tutti insieme e chiediamo a Gesù: dammi la tua compassione, voglio essere un tuo operaio, voglio prendere l'impegno di soffrire per chi non ti conosce, e non voglio solo soffrire, voglio anche agire spinto ed equipaggiato dal tuo spirito. Amen. Che sia la preghiera di tutti quanti noi questa mattina. Preghiamo, Chiesa.